sofferenza. This is Fango Duma Giga Show. Oh, oh, oh. This is Fango Duma Giga Show. Oh, oh, oh. Splendo, stupendo su questa base. Mica al ritmo mi entro in fase. D'atterraggio sopra un porno, un corto film, un cortometraggio. Con Rocco Siffredi e Selen, la bella è messa incinta da Riccardo Cocciante. Esce fuori un popante che inizia a rappare. Questo è il mio show, signori e signori. Voglio cantare una canzone che sia immortale, ma che sappia anche essere dimenticata, sparita qui. Come una donna rapita dentro un porno film. Non ditemi che sto parlando osceno, sono Mr. Osceno su questa base. Stai sereno, splendo, stupendo, come un Caravaggio. So Roberto Baggio nel 7, miro al segno e quindi let's get down the business. Perché ti viene un attacco di cuore, rimano con lei per ore a parlare un mitragliatore. Let's get down the business. Sono sceno come nei porno figli, porno business, quindi fammi entrare, voglio fare un porno film, un attore. Voglio essere pagato più di Rocco Siffredi. Sì, sono un attore porno film. Oh, let's get down, let's get down, let's get down the business. Io sono sceno come Sherry, quindi illness. Mi verrà una crisi epidermica ascoltando questa canzone al rallentatore. Al contrario, verrà fuori il diavolo e dirà I'm a devil in the scream. Yeah, sono dentro un porno film, porno film. Quindi fammi eccitare, bagascia, succhia questo arsenale. Voglio eccitare questo pubblico, ci saranno pippe o scene. Quindi let's get down the business. Fammi fare un porno con Selen Prince dentro un esorcismo che parli pure di suore, ma è un porno film. Quindi let's get down the business. Prega al contrario per le mie illness. E il soldato ti mando a fare una missione per me. Prega per me che mi faccia pure Selen. Quindi let's get down the business. Let's get down the business. Mi verrà un illness, un eritema solare, un emorroide colossale. Oh oh, let's get down, let's get down, let's get down the business. E non voglio prendere illness nel culo mai, sono nei guai, non faccio il frocio. Oh, quindi tu ricchione, balla sta base, prendila più di un culatone. E io vorrei porrare un porno fin con Selen e con Rocco Siffredi. Fammi fare pure scedi, su questa base sto imitando ma... Let's get down the business, o mi venga un attacco di cuore. Se parlo per ore, se parlo per ore, sono dopo un mitragliatore. Mi sparo e ti sparo insieme, ci guardiamo un porno film. Dentro a questa base viene pure se lei con Rocco Siffredi, quindi let's get down the business. Fammi fare un porno film dentro Pornhub, una pubblicità di un arsenale, dell'arsenale, sto cazzo qua però. Fammi fare un porno film per favore. Voglio guardare a porno un milione. Voglio almeno fare recitazione. Sono una bimba viziata, mio padre mi aveva inculata. Adesso voglio fare un porno film. Quindi getta un po' di fango su questa base qui.